Altro libro da mettere in valigia, un piccolo libro di sole 36 pagine, si intitola La piuma ed è il libro di Giorgio Faletti pubblicato postumo da Baldini e Castoldi. Lo diciamo subito, non è un thriller, non è uno di quei thriller a cui Faletti ci aveva abituati. È una sorta di favola per adulti che vuole sottolineare il senso profondo delle cose. C'è una piuma che svolazza di qua e di là, però viene ignorata da tutti, insomma si posa sul tavolo di un re, di un generale che stanno studiando i piani di battaglia, sfiora un cardinale che è impegnato a chiedere la quota di grano ai contadini poveri, va vicino ad una prostituta che è interessata solo alla sua ricompensa. Insomma, nessuno riesce a vedere questa piuma, forse nessuno. Questo è un libro su cui Faletti aveva già lavorato, insomma, seppur pubblicato postumo, era un libro già fatto e finito, come ci racconta la moglie dello scrittore Roberta Bellesini. Era un progetto al quale Giorgio lavorava, tra virgolette, nei momenti di pausa tra un progetto e l'altro. Era un progetto molto articolato perché nella sua testa doveva essere soprattutto un musical. Quindi lui aveva cominciato a lavorare alla parte scritta, quindi aveva steso, c'era stata la stesura della storia, quindi la creazione di questi personaggi, ma quella appunto voleva essere la base poi per lavorare a un progetto più ampio, quindi con dei testi musicali, delle musiche e delle canzoni vere e proprie. Infatti il testo è molto diverso, insomma, dai suoi libri precedenti. Qualcuno l'ha definita una favola morale. Ci sono diversi personaggi, c'è il re, il cardinale, la ballerina, la prostituta, insomma, tutti rappresentano un qualcosa, un concetto più vasto. Oserei dire personaggi allegorici, perché poi all'interno di queste di queste piccole storie ci sono dei dettagli, delle sfumature sulle quali effettivamente si possono fare delle belle riflessioni proprio sul discorso della società, del mondo. Quindi, insomma, perché la storia è di questa piuma, insomma, che vaga, incontra questi personaggi e nessuno sembra rendersi conto di questa piuma. Ma qual era il significato che Faletti voleva trasmettere? Io penso fondamentalmente il significato era che forse in questo momento si è molto distratti, cioè molto distratti o comunque molto concentrati sulle proprie cose, cioè non voglio dire sul proprio orticello, ma effettivamente ci sta, e quindi si perde un pochino la visione d'insieme di quello che deve essere il cammino che deve fare, insomma, la società, e quindi il senso fondamentalmente era quello. Ma diciamo, sarebbe stata una parentesi, avrebbe continuato a scrivere i suoi thriller, i suoi gialli, o era una svolta anche nella sua scrittura, nel suo rapporto con i lettori? No, sicuramente era una parentesi, perché comunque lui stava lavorando anche, stava buttando giù le idee per altri romanzi, e romanzi che sicuramente seguivano, insomma, la scia dei precedenti. Quindi questa sicuramente voleva essere una parentesi, fondamentalmente perché comunque per lui una componente fondamentale del suo percorso artistico era la musica, e quindi ogni tanto lui aveva proprio necessità di portare la musica all'interno della sua produzione artistica, e quindi questa sarebbe stata una parentesi. Dopo la scomparsa di Faletti, molti hanno, diciamo, osannato la sua opera, anche alcuni che l'avevano criticato nel mondo editoriale, perché all'inizio, insomma, aveva creato un po' un terremoto, aveva scatenato anche le invidie e le gelosie di altri scrittori. Quando lei, insomma, ha sentito queste cose, che cosa ha pensato? Come ha reagito? Beh, chiaramente insomma, sono quelle cose che, così, da una parte fanno un po' sorridere, dall'altra fanno anche un po' arrabbiare, perché effettivamente, soprattutto per il fatto che lui questa cosa l'ha sempre patita molto. Il fatto di non essere, inizialmente addirittura di non essere creduto perché era uscita, insomma, erano uscite varie storie di fantomatici ghostwriter, cioè era Jeffrey Deaver che gli scriveva il libro, era la moglie, cioè io che proprio non ho mai avuto niente a che fare, cioè chiunque poteva essere l'autore dei suoi libri, ma non lui. Ma perché, cos'è che dava fastidio, insomma, che un personaggio riuscisse a fare tante cose bene? Sì, sicuramente questo, purtroppo è una mentalità che in Italia, mi spiace dire, ma abbiamo riscontrato più volte anche con altri personaggi, e purtroppo dimentichiamo che in realtà è proprio una caratteristica italiana, perché se pensiamo a Leonardo, cioè Leonardo da Vinci ha veramente, cioè, era uno scienziato, era un pittore, era un poeta, era uno scrittore, cioè, e quindi stiamo dimenticando quelle che in realtà erano proprio le nostre peculiarità. E quindi questo è un po' assurdo, non, è una cosa che si fa fatica a capire, perché poi girando nel mondo capisci che invece questa che da noi viene sempre guardata un po' con sospetto è una caratteristica che invece viene ricercata. Ad esempio prendiamo il caso degli Stati Uniti, dove veramente, anzi, più esperienze lavorative hai, più cose fai e più hai valore. E quindi questa era una cosa che, insomma, parecchie volte ci ha fatto arrabbiare. Leggendo anche un po' di articoli su questo libro, La piuma, alcuni l'hanno definito il testamento morale di Faletti. Lei cosa ne pensa? Insomma, lei che è la persona che è stata più vicina, insomma, sa tutta anche la genesi del libro, i contenuti e così via. Ecco, questo è un'altra caratteristica forse prettamente italiana, cioè il fatto di trovare a tutti i costi un'etichetta da appiccicare a un prodotto, a un lavoro, e in realtà no, perché ovviamente è stato un lavoro che è cominciato 4 anni fa, quindi era ben lungi dall'essere un testamento morale. Diciamo che il fatto che questo sia l'ultimo lavoro che noi abbiamo di Giorgio è un dato di fatto, punto. I may be loose, I'm not a cannon. I can be quiet saying my name. There are the weights, where is the balance? Maybe everyone's to blame. Altro libro dunque da mettere in valigia è La piuma di Giorgio Faletti, pubblicato da Baldini e Castoldi. My heart and my mind have been with me always, but not long enough to keep them in. Anche per questa puntata dei Romanzi in Valigia è tutto, vi do come sempre l'appuntamento ogni domenica per i consigli estivi alle 17 e con Il cacciatore di libri il sabato alle 6:30 per i mattinieri e alle 22. Grazie a regia Carmelo Lauricella, una buona lettura da Alessandra Tedesco.